Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi. Questa è Italia in controluce, l'approfondimento del giornale di Radio 24. Oggi è il 3 settembre, il digiuno del Papa contro ogni guerra. Mai più guerre. Tre parole secche, ripetute, ribadite in pochi giorni, determinano il ritorno all'azione pacifista del Vaticano. Non è una svolta, perché da Gregorio Magno a Giovanni XXIII, Papa Wojtyła, fino a Papa Francesco, si ripropone il tema del contrasto ad ogni orrore. Oggi il Papa avverte che quello siriano è un conflitto che tende ad estendersi in ogni parte del pianeta con effetti deflagranti. Il rischio di un conflitto mondiale è molto vicino e di pochi secondi fa la conferma da Israele che ci sono in atto in questi minuti test missilistici con gli Stati Uniti nel Mediterraneo, un lancio che era stato segnalato, poi smentito, poi confermato da Mosca. Comunque, perché il Papa invita tutti al digiuno contro ogni guerra e il Ministro della Difesa, credo per la prima volta un Ministro della Difesa mondiale come il Ministro Mauro aderisce ad un digiuno pacifista. Cosa pensate voi di questo forte impegno, questa forte iniziativa pacifista del Vaticano? E secondo voi l'Italia deve restare fuori da un possibile conflitto con la Siria? I vostri sms e le vostre opinioni al 349-238-6666, come facciamo ogni giorno. Iniziamo subito con la voce di Papa Francesco all'Angelus di domenica. Vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace, mai più la guerra. Il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. Rivolgo un forte appello per la pace. Con particolare fermezza condanno l'uso delle armi chimiche. C'è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire. Questo era Papa Francesco all'Angelus di domenica. Vi chiediamo al 349-238-6666 cosa pensate di questa forte iniziativa pacifista del Vaticano e se l'Italia secondo voi deve restare fuori da un possibile conflitto con la Siria. Bene, siamo stanno già arrivando alcuni sms, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, mi raccomando firmate i vostri sms, nome e cognome e possibilmente anche città da dove scrivete. Non si può lasciare da soli i siriani, quindi con questa frase implicitamente si dice l'ascoltatore o ascoltatrice è d'accordo ad un possibile conflitto con la Siria. Allora torniamo indietro e andiamo a quando Giovanni Paolo II, in occasione della guerra in Afghanistan, indisse una giornata di digiuno e preghiera, un incontro interreligioso importante di Assisi. Sentiamola. Dobbiamo pregare senza stancarci per ottenere questo grande dono che è la pace. Lo invocheremo fiduciosi anche con le due iniziative, giorno di giugno in dicembre e l'incontro di preghiera in gennaio ad Assisi. Questa era la voce di Giovanni Paolo II. Intanto continuano ad arrivare sms 349-238-6666 sul pacifismo del Vaticano. Finalmente un Papa, dice Corrado da Como, un Papa che non teme di esporsi. Il silenzio dei buoni è peggio delle azioni dei cattivi. Io sto con il Papa, dice Corrado da Como. Basta guerre, con tutte le forze del mondo deve usare la forza della diplomazia. Sto con il Papa. Daniela da Viareggio. Questo è il Ecco, poi c'è un altro ascoltatore, Giuseppe, credo da Trapani, dice: il ministro Mauro non vuole la guerra, ma però vuole gli F-35. Questa è la contraddizione che dice il nostro ascoltatore. Allora, Katia Caramelli ha intervistato Alberto Melloni, storico della Chiesa. Sentiamo. La Santa Sede ha avuto durante tutto il Novecento una sua visione del Medio Oriente, che volta a volta ha cambiato prospettive, obiettivi e così via, ma non è mai stata un'area qualsiasi nella sua lettura del mondo. E tanto più dagli anni 90, da quando sono iniziata con la guerra del Golfo, le crisi che si sono succedute in quella zona, il papato ha preso posizione in maniera sempre molto forte, sempre molto netta, ed era stato singolare che in queste settimane in cui si sentiva preparare molto fortemente questo rumore di guerra, la Santa Sede fosse rimasta sostanzialmente il silenzio, un silenzio che il Papa porta in maniera molto drammatica domenica e ancora ieri, dicendo molto chiaro qual è la sua prospettiva, cioè una lettura di insieme della crisi siriana e della crisi più in generale dell'area, e una contrarietà all'intervento militare che dà delle ragioni semplicemente tecniche o diplomatico-procedurali riguardanti quello che fa l'ONU, ma una ragione più profonda, teologica, e che nasce dalla posizione stessa che le chiese minoritarie hanno in quella zona. Parole che comunque hanno riportato alla mente quelle di Wojtyła quando convocò l'incontro interreligioso di Assisi. Il primo Assisi era nato come una risposta all'ONU, il secondo Assisi era nato come una risposta alla guerra afghana. Questa volta il Papa ha fatto qualcosa di più: anziché mettersi al centro, si è messo in una posizione diversa, cioè l'appello che lui ha fatto ieri, un appello affinché tutte le chiese, le fedi facciano loro un'iniziativa, ma al tempo stesso ha ricordato e ribadito quello che è una funzione della Chiesa di Roma, presiede alla carità, come ha detto, citato Sant'Ignazio d'Antiochia all'inizio del pontificato, e in questa presidenza della carità dà alla Chiesa di Roma un ruolo che non è quello del capo, ma è quello di una Chiesa sorella che stimola gli altri su un punto decisivo. Adesso vedremo quella che sarà la risposta di Mosca, di Costantinopoli, della Comunione Anglicana. Questo è Alberto Melloni al microfono di Katia Caramelli, storico della Chiesa. Un altro ascoltatore, Giuseppe da Verona, dice: sono molti anni che non si fa niente sul fronte della pace, come italiano e come europeo mi sento un egoista. 349-238-6666, cosa pensate di questa iniziativa pacifista del Vaticano? Secondo voi l'Italia deve restare fuori da un possibile conflitto con la Siria oppure no? Ieri la presa di posizione del Vaticano, quella di Monsignor Mario Tosi, segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, e questa mattina Katia Caramelli lo ha intervistato. Il Vaticano quindi dice no con forza alla guerra. Che cosa si rischia a suo avviso e comunque ad avviso della Santa Sede con una guerra in Siria? Ma il peggioramento della situazione, che peraltro è già molto molto grave, non si vede come un intervento armato possa migliorare le cose. Le condizioni umanitarie sono disastrose, il 75% degli ospedali è stato distrutto ed è molto difficile raggiungere i bisognosi, anche perché molti degli aiuti che vengono inviati sono poi sottratti da bande armate. Come risulta anche dalle prese di posizioni dei vari soggetti politici della comunità mondiale, è evidente che dietro ai contendenti sul campo stanno potenze regionali e internazionali e che sono contrapposte tra loro. L'intervento armato a favore di una parte, è facile comprenderlo, scatenerebbe la reazione dell'altra. E così si corre realmente il rischio di un allargamento del conflitto. Qual è la strada da seguire per la Santa Sede? Trovare al più presto una soluzione politica, ovvero cessazione immediata della violenza, riavvio dei negoziati di pace con la partecipazione di rappresentanti di tutte le componenti della società siriana, promuovere una convivenza pluralista e democratica, puntando a creare una società moderna, fortemente solidale attorno al bene comune, modello di pace per tutti quei paesi che sono contrassegnati da profonde diversità, ma anche da enormi ricchezze culturali e religiose. La convivenza pacifica tra minoranze religiose ed etniche è una delle note che sempre ha caratterizzato la Siria, nonché una delle principali ragioni di ammirazione per quel popolo da parte di coloro che lo visitavano. La Santa Sede si sta prodigando per riportare in questa terra, distrutta dal conflitto e dalla violenza, l'originario spirito di pace, rispetto e convivenza tra etnie e religioni diverse. Sabato, la giornata di digiuno e preghiera voluta dal Papa, sono già tante le adesioni anche da parte di altre confessioni religiose, ma anche da parte del mondo politico. Gli uomini da soli non sembrano in grado di vivere e realizzare la pace, lo dimostrano i fatti. Il digiuno e la preghiera possono aiutare a rientrare in se stessi, a riscoprire la fraternità che unisce tutti i popoli in un'unica famiglia, a trovare con l'aiuto di Dio e del suo amore le vie efficaci del rispetto e della promozione reciproca. Papa Francesco, indicendo una giornata di digiuno e preghiera, invita tutti, credenti e uomini di buona volontà, responsabili politici e comunità, ad affidarsi non al potere della violenza, ma al potere dell'amore. Bene, grazie a Katia Caramelli che era in redazione. Avete sentito le sue interviste ad Alberto Melloni e a Monsignor Mario Ortoso, il segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Grazie anche a tutte quelle persone che hanno fatto 349-238-6666, che si sono divise come tutti i giorni raccontano quelle che sono le notizie insieme a noi più importanti del nostro paese e non solo. A risentirci domani 13:30 Radio 24.